I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Banche sotto tiro, banchieri sotto accusa, speculazione scatenata sui titoli bancari. Anche ieri è stata una giornata pesante per il settore del credito, la cui solidità è messa continuamente in discussione tanto dalle autorità quanto dalle borse e in particolare Piazza Affari. In realtà è ormai da un anno che la sacralità delle vecchie cattedrali del risparmio sembra smarrita nel buio della crisi, ma i ragionamenti della borsa non possono essere gli stessi dei risparmiatori. Un conto corrente non si vende come un'azione e il piccolo correntista ha pochi strumenti per capire se la sua banca è solida. Nell'era del bail-in queste domande non sono di poco conto. Un ideale Bignami del risparmio ci consiglierebbe di guardare semplicemente agli utili della banca negli ultimi 3 anni, al suo coefficiente di solidità, che deve essere il più possibile lontano dalla soglia minima di 10,5, e soprattutto leggere i giornali per sapere se la banca è oggetto di polemiche con le autorità di vigilanza. Se poi ci si vuole guardare intorno, il modello di banca che piace tanto oggi ai mercati è quello snello, con pochi sportelli e tanta tecnologia che permette di abbattere i costi. Ma la banca migliore, e questo l'ha detto ieri persino la potente autorità di vigilanza sulle banche inglesi, è quella più trasparente, pronta a informare tempestivamente i clienti delle modifiche normative e dei rischi collegati, dei costi dei servizi e delle spese occulte che vengono scaricate spesso sui conti. Spesso, dietro tassi generosi sui depositi, si nascondono opacità su prezzi e condizioni che sfuggono ai clienti. Informazione, insomma, condizione necessaria per valutare la serietà di una banca e forse questo è il primo capitolo della nuova educazione finanziaria. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Dell'Italia ormai sappiamo tutto. L'Europa ha dato il via libera alla flessibilità di bilancio pari allo 0,85% del PIL, vale a dire una cifra oscillante fra i 13 e i 14 miliardi di euro da spendere in deficit aggiuntivo. È un indubbio successo della capacità diplomatica del ministro Piercarlo Padoan, che sa parlare la lingua dell'Europa, soprattutto nell'accreditare il valore dello sforzo riformista dell'Italia. E in Europa è un uomo di cui i partner si fidano. Ma dalle pagelle diffuse oggi dalla Commissione europea emerge chiaramente che gli osservati speciali adesso sono Spagna e Portogallo, per i quali la Commissione ha chiesto all'Ecofin di raccomandare una correzione durevole del deficit eccessivo sia del 2016 che del 2017. Per Lisbona e Madrid, infatti, il deficit già oggi supera il fatidico 3%. E per la Spagna il debito pubblico ha raggiunto la soglia ragguardevole del 100%, con un'accelerazione negli ultimi anni molto forte. Non è aria di sanzioni in questa Europa in cui la leadership di Juncker ha scelto una strada di maggiore comprensione delle ragioni dei paesi falcidiati per anni da un ciclo economico negativo. Se ne riparlerà a luglio, quando in Spagna si capirà chi ha vinto le elezioni, che si terranno appunto il 26 giugno. Piuttosto oggi dall'Europa arriva il brutto dato della deflazione, che risulta confermata a meno 0,2%. Significa ancora una volta che l'economia ristagna e che sul futuro c'è ancora sfiducia. Le abbondanti iniezioni di liquidità della BCE fatte proprio per riportare al fisiologico tasso del 2% il livello dell'inflazione per ora non sembrano sortire l'effetto sperato, anche se la stessa BCE aveva previsto che in questo periodo ci sarebbe stato un aumento leggero della deflazione che dovrebbe poi lasciare lo spazio al ritorno di una dinamica normale ed equilibrata dell'aumento dei prezzi. Sarà solo allora però che la crisi si potrà dire davvero superata. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.